e quindi almeno fino agli anni del boom economico evoca questa idea appunto di modernità. La macchina, torno a ripetere, fino alla 500, fino alla 600 non è ancora uno strumento intanto carissimo. Quindi la bicicletta diciamo che per i primi sei decenni del Novecento conserva ancora tutto questo fascino, evoca un'idea di velocità, per la prima volta evoca l'idea di velocità prima che l'automobile prenda il sopravvento. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz. Oggi la storia e la memoria si occupa anche della giornata del ricordo, che si celebra mercoledì prossimo, 10 febbraio. Laura Bettini. Foibe, dal latino fovea, fossa. Cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo, la cui profondità può superare i 100 metri. Voragini in cui nell'Istria tra il 1943 e il 1947 furono gettati vivi o morti più di 10.000 italiani. Foibe. La tragedia dell'Istria è racchiusa in questa oscura parola che riassume in sé le vicende più dolorose degli ultimi 3 anni e l'ansia di un tremendo e temuto destino. Paurosa parola che mette il brivido in chi ha avuto la dolorosa avventura di veder risalire alla luce, dall'abisso delle foibe istriane, i cadaveri dei fratelli massacrati. In questo documento presentiamo il più recente recupero di salme da una foiba, è quella di Gropada. La RAI trasmise questo documentario d'epoca per la prima volta nel 1991, nella trasmissione Mixer. Le immagini, crude, raccapriccianti, erano state girate da Gianni Alberto Vitrotti, il primo operatore del dopoguerra a calarsi nelle foibe carsiche per documentare il recupero dei corpi degli italiani infoibati dai partigiani jugoslavi. Vitrotti è scomparso nell'aprile scorso, ma il suo lavoro vive e testimonierà sempre quell'orrore. È la prima volta che la macchina da ripresa scende in una foiba. Questa è profonda 72 metri. Ecco cosa vede e porta alla luce degli schermi del mondo. Tanto orrore, nella speranza che l'umanità diventi più buona. Ma che accadde tra il 1943 e il 1947? Gianni Oliva, docente di storia dell'Unità d'Italia a Torino e assessore alla cultura della regione Piemonte. Quando finisce la guerra si ha una resa dei conti. Le guerre non finiscono mai a tarallucce e vino, come la storiografia a volte vuol fare immaginare. Le guerre finiscono con delle tensioni, con dei massacri, con delle giustizie insurrezionali o ingiustizie a secondo dei punti di vista. Il maresciallo Tito promette agli jugoslavi la creazione di un nuovo confine dopo la guerra che comprenda anche le terre mistilingue, e cioè l'Istria, la Dalmazia, la zona di Trieste, dove da sempre vivono degli italiani e degli slavi, degli sloveni e dei croati. Il maresciallo Tito con i suoi uomini arriva per primo a Trieste il 30 di aprile del 1945 e, volendo annettere alla nuova Jugoslavia tutto quel territorio e sapendo che sarebbe stato difficile al tavolo della pace ottenere un riconoscimento così ampio di territori nuovi, fa strage di tutti coloro che possono difendere l'italianità di quella zona, e le foibe nascono da qui. Uomini che vengono presi di notte dalle loro case, fatti scomparire, generalmente fucilati e buttati in questi profondi inghiottitoi naturali che sono le foibe, dove vengono fatti sparire. Si tratta di una eliminazione di circa 10-12 mila persone, non c'è mai una contabilità precisa nei momenti drammatici della storia, nella quale vengono eliminati uomini che sicuramente erano stati punte di diamante del movimento fascista in zona, ma vengono anche colpite delle persone che avevano la colpa di svolgere lavori statali, dai postini agli insegnanti, ai responsabili della capitaneria di porto. Vengono colpiti coloro che sono italiani e che vengono in questo modo massacrati per togliere alla comunità italiana la sua capacità di rappresentare i propri diritti, a mantenere l'unione all'Italia. Quindi queste le vittime, ma ci sono molti anche che poi fuggono da questa situazione. E quindi nasce quell'esodo di cui certo, si parla. Poi quando nel 1947, con la trattativa di pace di Parigi e la sanzione del nuovo equilibrio europeo, tutta l'Istria e la Dalmazia, che prima della guerra erano italiane, vengono assegnate alla Jugoslavia, tutte le persone che, italiane che abitavano lì, o almeno il 90% di loro, fugge profugo in Italia. E si tratta di un esodo che coinvolge tra le 200 e le 250.000 persone, che abbandonano tutto, le case, gli averi, le tradizioni, le storie, e vengono a vivere in Italia sparpagliati in 109 campi profughi in attesa della costruzione di case popolari. Alcuni di loro stanno fino a 10 anni nella precarietà della vita del campo. A casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia. Dal 2004, il 10 febbraio di ogni anno, si celebra il Giorno del Ricordo, istituito dalla Presidenza della Repubblica con questa motivazione: conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Eppure, nonostante tutti gli sforzi, gli italiani continuano a conoscere poco di quei fatti, anzi di anno in anno ne sanno sempre meno. Un sondaggio della Ferrari Nasi Ricerche rivela che solo il 38% della popolazione italiana ha dimostrato di conoscere il significato della parola foibe, meno 3% rispetto allo scorso anno. Mentre sono ancor meno quelli che sanno il perché dell'espressione esodo giuliano-dalmata, il 16%, meno 7% rispetto al 2009. A commissionare la ricerca è stata l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che assiste gli italiani fuggiti da Istria e Dalmazia, appunto, dal termine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Perché, chiediamo al segretario nazionale Sergio Rocchi, di foibe se ne sa meno ora che qualche anno fa? L'arretramento è dovuto negli ultimi due anni al fatto che i media fondamentalmente non se ne occupano se non un giorno all'anno e spesso con trasmissioni in tarda serata o con due righe sui telegiornali. Il secondo fatto invece negativo è che sui libri di storia degli alunni delle scuole e delle università questo argomento ancora non compare, e questo crea un blocco sistematico rispetto alla nostra storia e alla conoscenza che ne possono avere i giovani. Tra l'altro, nel sondaggio si evidenzia come siano ad esempio gli alunni delle scuole superiori ad essere più a conoscenza dei fatti di quanto non siano per esempio i dottori, i laureati. Sì, esatto. Diciamo che l'università è sempre stata un ostacolo, probabilmente anche per motivi di concezioni ideologiche dei nostri argomenti, che noi invece rifiutiamo completamente. Nelle scuole superiori invece il terreno sembra più fertile, perché i ragazzi sembrano più volenterosi di avere la conoscenza diretta di episodi che non trovano ancora nei libri di testo. Non ci sono nei libri di testo questi episodi, come potete anche voi promuovere la conoscenza dell'accaduto? Noi proprio negli ultimi mesi con il Ministero dell'Istruzione abbiamo aperto un tavolo di trattativa per trovare una soluzione. Il tavolo è aperto, ci sarà un seminario del Ministero dell'Istruzione a febbraio. Da questo scaturirà una serie di iniziative che speriamo portino alla sensibilità degli autori e degli editori, che sono coloro che comunque poi stampano i testi da dare alle scuole. Questa è la mia religione, l'unità della nazione. Professore Oliva, lei è un insegnante ovviamente, è anche un amministratore. Che gesti reputa più importanti, più utili per far scoprire quello che accadde e farlo ricordare, per far avere memoria delle foibe? Credo che un primo intervento sarebbe quello di una rivisitazione dei programmi di storia, soprattutto delle scuole superiori, che desse tanto spazio alla storia del Novecento, alla storia più recente. Forse se ignoriamo i sette re di Roma o qualche pezzo delle guerre dei cent'anni va bene, sarebbe meglio ricordare un po' di più gli ultimi 100 anni. E poi però credo che lo strumento vero sia un altro. Noi siamo la generazione che cresce oggi, una generazione che non ha più la trasmissione di memoria fatta in famiglia. I nostri genitori, noi che abbiamo la mezza età, la guerra l'avevano vista, e anche se non erano tutti partigiani o reduci di Russia, erano comunque persone che ci raccontavano che cosa era accaduto. Questa memoria, per ragioni anagrafiche, non c'è più. Per sollecitarla, la scuola ha il suo compito, ma soprattutto hanno il suo compito le nuove tecnologie. Bisogna utilizzare la televisione. Un professore di storia facendo conferenze tutta la vita non tocca mai il pubblico che la televisione pubblica tocca in mezz'ora. Quando i paesi e le giovani generazioni dimenticano, non dico che c'è la deriva, ma ci sono le avvisaglie di possibili derive. I più fragili, i più irrequieti, i meno coscienti, possono pensare che certi orrori siano possibili e normali. Qualcuno dei presenti parlò nel silenzio. Dio punisce chi ha commesso questi delitti. Ad una voce chiara ha risposto: Dio perdona coloro che non sanno quel che si fanno. Sulle foibe esistono libri. Uno è quello di Gianni Oliva, Foibe, le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, ma pochi film. Sentiamo Franco D'Assisti, critico cinematografico e autore del programma La Rosa Purpurea su Radio 24. Il film più importante che è stato prodotto in Italia per quanto riguarda il tema delle foibe è anche di produzione piuttosto recente ed è Il cuore nel pozzo, un film firmato da Alberto Negrini, un film per la TV, una fiction televisiva in due parti con un cast importante formato da Beppe Fiorello, Antonia Lescova, Marcello Mazzarella, attori di un certo pregio e ai quali il pubblico televisivo è molto abituato, e questo forse è l'episodio più evidente su questo tema, che è un tema difficile, un tema delicato, che in Italia è stato sfiorato poche volte e che è arrivato sui grandi, sui piccoli schermi con questa fiction che ha anche molto diviso, nacquero molte polemiche, il film fu accusato di revisionismo, il regista Alberto Negrin, che tra l'altro è di religione ebraica, chiaramente disse: noi abbiamo solo voluto aprire una finestra su un aspetto poco frequentato dalla cinematografia italiana, nonostante sia un dramma che ha toccato tutto il paese. Che è successo? Ti devo parlare. Scusa il modo e l'ora, ma è molto urgente. Non eri andato con i partigiani? Sì, ma ho dovuto riattraversare le linee questa notte. I tedeschi ormai sono sconfitti. L'armata jugoslava sta per arrivare qui. Dovete tornare in Italia. Ma noi siamo già in Italia. Tra poco non sarà più così. Gli slavi vogliono queste terre a qualsiasi costo e sono pronti a tutto, anche a fare rappresaglie. Noi abbiamo avuto sempre ottimi rapporti con loro. Dopo quello che hanno subito, io non credo che faranno troppe distinzioni. Il nostro comitato di liberazione vuole che io tratti con l'armata jugoslava di Tito. Ma credetemi, per voi è molto meglio sbaraccare tutto e anche la svelta. Penso di riuscire a mandarvi un furgone al massimo in un paio di giorni, anche se non sarà facile. Ma come un paio di giorni? Perché tutta questa urgenza? Non c'è più tempo, Giorgio. È l'unica cosa da fare. Sono state realizzate alcune produzioni minori legate a circuiti specifici. Sono state effettuate altre produzioni minori che sono state soprattutto, diciamo così, incentrate sul racconto per le scuole, su docufiction, documentari, a volte con qualche elemento di finzione, ma sempre mediometraggi, film intorno ai 50 minuti. Facciamo il caso di Ritorno a casa di Simone Damiani, un film appunto prodotto proprio per essere poi circuitato attraverso circuiti alternativi a quello cinematografico, a quello televisivo. C'è stato anche un film che si è tentato di fare, un film che doveva avere come regista Gabriele Polverosi, un regista milanese che tra l'altro è stato collaboratore di Bernardo Bertolucci nella sua carriera. Il film era praticamente pronto, ma non si riuscì a farlo, doveva intitolarsi Un processo mancato, mancò invece il finanziamento pubblico, il finanziamento statale, e questo film non riuscì all'inizio degli anni 2000 ad andare in porto, ed è proprio simbolico e emblematico del rapporto difficile fra la cinematografia italiana e la storia, il racconto di questo pezzo del percorso del nostro paese. Non si tratta di un doppio binario nel racconto della storia, ma di un discorso più complesso. Il problema è molto profondo. Quando il cinema italiano ha dovuto affrontare il racconto della guerra partigiana nei suoi lati più controversi, pensiamo ai crimini del Triangolo Rosso, piuttosto che alla guerra, alla battaglia che a un certo punto si apriva, partigiani comunisti e partigiani cattolici, il cinema italiano lo ha fatto. È vero che lo ha fatto molto tardi, lo ha fatto fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, con film come I piccoli maestri di Lucchetti, Il partigiano Johnny, oppure Porzus di Martinelli, però affrontare il tema delle foibe è stato quasi sempre un tabù, e questo forse perché al di là della questione politica il tema delle foibe richiama uno dei primi grandi episodi di pulizia etnica del Novecento, e probabilmente proprio per questo motivo è un tema talmente delicato che nessuno si è sentito di prendere il rischio di farlo, quasi fosse più facile raccontare l'altra faccia della resistenza che non toccare questo tema delle foibe. Vi segnaliamo che mercoledì 10 febbraio alle 15:10 andrà in onda su History Channel il documentario Esodo, l'Italia dimenticata. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Emanuela Sicuro. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.